405. Cardoni in umido. Dopo averli lessati come i precedenti, metteteli in umido con un battutino d'aglio e prezzemolo, olio, sale e pepe. Se li desiderate più grati al gusto e di più bella apparenza, copriteli di una salsa d'uovo e limone quando sono già sul vassoio. Frullate qualche uovo con agro di limone. Mettete il liquido al fuoco in una cazzarolina, girando il mestolo, e versatelo quando comincia a condensarsi. Se non usate la salsa, conditeli almeno con un pizzico di parmigiano. 406. Cardoni in gratella. Non è un piatto da raccomandarsi molto, ma se volete provarlo, dopo aver lessati i cardoni, asciugateli bene, lasciate le costole lungo un palmo, conditeli generosamente con olio, pepe e sale e rosolateli in gratella. Possono servir per contorno a una bistecca o ad un pesce in gratella.